Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La signora ha creduto ai giornali, così Berlusconi replica alla moglie che lo aveva attaccato per le liste con veline e soubrette. Influenza suina, prima vittima negli Stati Uniti, si tratta di un bambino di quasi 2 anni, 3 i casi in Germania. Arrestato a Napoli, Michele Bidognetti aveva preso il posto di Setola alla guida del clan dei Casalesi. Maltempo, mattinata difficile in Lombardia, fra allagamenti e tangenziali chiuse, sta tornando la calma invece in Piemonte. 100 giorni di governo, il bilancio su Obama tra poco in XL, politica estera ed economia, i temi principali. Sport truccato, la procura di Reggio Calabria indaga sulle partite di basket, mentre il mondo del ciclismo piange per Rebellin, scoperto positivo al doping. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo con una storia che è tra il mondo privato e quello della politica. Insomma, il discorso, il battibecco, potremmo dire, a distanza fra il premier Silvio Berlusconi e la moglie Veronica Lario. Tutto è partito da una intervista rilasciata dalla premier Dam ieri sera all'ANSA, e poi questa mattina c'è stata la risposta, sempre a distanza e per via pubblica, di Silvio Berlusconi. Ma iniziamo dalle parole della Lario. In questo caso, in particolare, le parole vanno soppesate con cura, perché interrompono l'abituale riservo con cui Veronica Lario, moglie del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha scelto di difendere la privacy sua e dei suoi figli. E anche in questo caso, il punto di partenza della email con cui la moglie del premier ha risposto alle domande dell'ANSA sulle polemiche legate alle giovani e avvenenti candidate che il PDL si appresta a mettere in lista alle europee, è un richiamo alla famiglia. Voglio che sia chiaro, scrive la signora Lario, che io e i miei figli siamo vittime e non complici di questa situazione. Dobbiamo subirla e ci fa soffrire. Veronica Berlusconi spiega che per fortuna è da tempo che c'è un futuro al femminile sia nell'imprenditoria che nella politica, e cita come esempi Margaret Thatcher o Angela Merkel, ma anche per l'Italia Nilde Iotti e Stefania Prestigiacomo. Poi però arriva l'affondo. Quello che emerge oggi, scrive la signora Lario, attraverso il paravento delle curve della bellezza femminile è la sfrontatezza e la mancanza di ritegno del potere che offende la credibilità di tutte, e questo va contro le donne in genere. Il riferimento è ribadito con chiarezza, pur senza nominare il marito. Qualcuno, dice Veronica, ha scritto che tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido. Quello che emerge dai giornali è un ciarpame senza pudore. Tutto in nome del potere. Paolo Piacenza, GR24, il sole 24 ore. E come annunciavamo prima, poco fa è arrivata la replica di Berlusconi. Il premier, lo ricordiamo, si trova in visita a Varsavia. Con lui c'è l'inviato del sole 24 ore, Gerardo Pelosi. Gerardo, allora, che cosa ha detto il presidente del Consiglio? Buongiorno a voi. In realtà ha usato questa vicenda privata per dire che c'è una manovra montata dalla stampa di sinistra e dell'opposizione sulle liste, sulle candidature del PDL, ma che si trasformerà in un boomerang per la sinistra. Noi non accettiamo di vederci imporre dalla sinistra quello che è per loro il metro d'azione nella nomina dei candidati, che molto spesso sono vecchi arnesi della politica, liberano il campo in Italia per mandarli in pensione in Europa, sono soltanto interessati al compenso e molto spesso assenteisti. Vogliamo, dice Berlusconi, rinnovare la nostra classe politica con persone che siano colte e preparate, che garantiscano la loro presenza a tutte le votazioni e che magari, attenzione a questo punto, non siano maleodoranti e malvestiti come altri personaggi che circolano nelle aule parlamentari da parte di certi partiti. Non si è capito a chi si riferisse, le persone maleodoranti e malvestite, ma comunque questo è quello che ha detto il premier. Veronica, anche la signora, ha detto Berlusconi, ha creduto, è stata quindi manipolata, ha creduto a quello che hanno messo in giro i giornali della sinistra, e di questo mi dispiace. Di che cosa si tratta? Uno sgambetto fastidioso, forse, di cui nessuno si ricorderà tra qualche giorno, ma comunque in grado di minare, mettere a dura prova la popolarità del premier, che si era notevolmente rafforzata nell'ultima campagna di Abruzzo e nel trasferimento all'Aquila del G8. Le solite faccende familiari non sono nuove, queste polemiche interne alla famiglia che hanno anche un coté pubblico. ma in realtà c'è anche da dire, e volevo correggere la collega, in realtà non è un'intervista all'Ansa, è un'intervista a Fare Futuro, una rivista, una fondazione di cui è presidente Gianfranco Fini, e Gianfranco Fini si era lamentato qualche mese fa proprio perché Striscia la Notizia, Mediaset, aveva mandato in onda un filmato non proprio elogiativo nei confronti della Tulliani, l'attuale sua moglie, all'epoca una compagna del presidente del Perugia, Gaucci. Quindi tutto si mischia e diventa un grande polpettone nel quale è difficile andare a capire poi quali sono i punti di riferimento certi. Bene, bene, grazie Gerardo Pelosi per il tuo racconto e anche per la tua analisi, e di analisi ne sentiamo un'altra, Alessandra. Quella del politologo Giovanni Sartori, che è intervenuto oggi a 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Come si usa dire, si è incavolata la Veronica. E infatti è abbastanza straordinario, voglio dire, perché suo marito è pur sempre Presidente del Consiglio, quindi capo del governo, e anche una persona che la mantiene nel fasto e nel lusso. Il guaio evidentemente è che la ignora. Certo, sì, certo. Una dichiarazione così della moglie di un capo di governo è del tutto inedita nella storia delle mogli dei premier. Ma c'è un'altra dichiarazione fatta ieri da Silvio Berlusconi che sta facendo discutere, e questa volta un po' più sul fronte politico, ossia sul referendum, che punta a modificare l'attuale legge elettorale. Voterò sì, ha detto il Premier. Il referendum dà un premio di maggioranza al partito più forte. Vi sembra dunque che io possa votare no? È una risposta che naturalmente non è piaciuta alla Lega. E il segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini, intervenuto questa mattina a Radio 3, punta proprio su questo. Sentiamo le sue parole. Si è deciso di votare sì. Capisco, e questa è la parte che poi capiremo nei prossimi giorni, umiliando la Lega. Passa le giornate a umiliare la Lega, gli boccia le ronde, gli boccia la norma, gli fa bocciare la norma sui centri per gli immigrati di prima accoglienza, gli sbatte in faccia una scelta di votare sì al referendum. Nessuna difficoltà. Noi abbiamo detto, abbiamo votato in direzione, abbiamo dei meccanismi un po' più democratici che non annunciare dall'estero alla sera come vota lui, e quindi immagino come voterà il suo partito. E noi abbiamo deciso di votare sì al referendum perché la domanda è: volete abrogare la legge porcata di Calderoli, sì o no? E naturalmente la risposta non può che essere sì. Se sul referendum c'è dunque tensione fra Berlusconi e la Lega, è chiaramente invece una vittoria della Lega il voto finale sul federalismo fiscale che arriverà questa sera al Senato. Le modifiche dovrebbero essere tutte respinte, il provvedimento non dovrebbe avere problemi per la sua approvazione, vista tra l'altro l'astensione del Partito Democratico. Ma sentiamo che cosa contiene questo provvedimento. L'idea è semplice: invece di raccogliere le tasse e poi girare i soldi pubblici a regioni, province e comuni, lo Stato lascerà alle autonomie locali una parte cospicua delle entrate per erogare i servizi. Il passaggio dal sistema dei trasferimenti statali a quello del fabbisogno standard con responsabilità di entrata e di spesa durerà 5 anni. A garantire che i servizi saranno uguali in tutte le regioni, un fondo nazionale di perequazione. Questi i principali contenuti del testo che ridisegna il sistema di entrata e di spesa in via di approvazione definitiva. Per le regioni le entrate necessarie a garantire sanità, assistenza e spese amministrative dell'istruzione deriveranno da una aliquota nazionale a cui si aggiungerà l'addizionale regionale IRPEF, la compartecipazione all'IVA e quote di fondo perequativo. L'IRAP invece sparirà progressivamente. Le spese dei comuni come territorio, asili nido e viabilità verranno finanziate con le imposte immobiliari e con un mix di compartecipazione a IVA e IRPEF e anche con il ricorso al fondo di perequazione. Infine, le funzioni fondamentali delle province, ambiente, trasporti e istruzione, saranno finanziate con tributi connessi al trasporto su gomma e col fondo di perequazione. Questo dovrà ristabilire l'equilibrio tra le regioni a più o meno capacità contributiva e sarà alimentato dalle varie autonomie locali. In arrivo anche il nuovo ente Roma Capitale, che sostituirà il Comune, così come altre 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Alessio Maurizio, GR24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ora con l'importante arresto di Camorra di questa mattina in diretta da Napoli, Laura Vigiano. Laura, chi è finito in manette? Buongiorno, è finito in manette Michele Bidognetti, è stato arrestato dagli uomini della DIA a Casal di Principe, comune della provincia di Caserta, che è la roccaforte del clan dei Casalesi. Era in una casa, una delle tante nella disponibilità del clan e in particolare della fazione Bidognetti. Gli agenti coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli lo hanno intercettato nel corso delle indagini mentre impartiva agli affiliati gli ordini ricevuti dal fratello, il boss Francesco Bidognetti, detenuto in carcere e sottoposto al regime del 41 bis. L'operazione di questa mattina è stata denominata Principe e ha portato al sequestro di numerosi beni tra aziende agricole, terreni, ville per un valore complessivo di oltre 5 milioni, frutto del controllo illecito dell'economia del territorio. Tra le ville a cui sono stati posti i sigilli c'è anche quella della convivente del collaboratore di giustizia Domenico Bidognetti, Assunta D'Agostino. Anche lei vittima di estorsione da parte di Giuseppe Setola, ora in carcere e prima, lo ricorderete, capo dell'ala sfragista del clan, il quale non sopportava che un bene dell'organizzazione criminale potesse essere nella disponibilità di un collaboratore di giustizia. Grazie a Laura Vigiano, collegata con noi da Napoli. Simone. Sì, perché c'è un'ultima ora che parla di sport. Il Consiglio Mondiale della FIA, la Federazione Automobilistica Internazionale, ha sospeso per 3 Gran Premi il team della McLaren, reo di aver mentito sul sorpasso Hamilton Trulli in Australia. In realtà è una sanzione con la condizionale, sarà operativa nei prossimi 12 mesi in caso di nuove infrazioni. Dallo sport alla cultura, per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, che è stato presentato questa mattina a Roma, ci racconta tutto Chiara Di Michele. Chiara. Sì, buongiorno. Anche quest'anno il Festival dei Due Mondi di Spoleto è arrivato alla sua 52esima edizione. È ricco di eventi originali, ce n'è veramente per tutti i gusti, dalla musica al teatro, la danza, l'opera e diverse mostre. La città medievale ridiventa il luogo di produzione di messe in scena concepite per l'occasione e per la prima volta portate al pubblico italiano. Il direttore del festival, Giorgio Ferrara, ha appena presentato il vasto programma. L'opera sarà inaugurata con Gianni Schicchi, opera lirica di Puccini, con l'esordio di Woody Allen come regista. Per la musica, il concerto inaugurale è dedicato a Giancarlo Menotti. A Marcello Panni è stata invece commissionata l'Apocalisse, l'ultimo e più misterioso libro della Bibbia. Spazio anche alla musica jazz per arrivare al concerto finale con le musiche di George Gershwin. Per gli amanti della danza, tra i tanti eventi, una grande sorpresa. Dopo 30 anni la grande coreografa Pina Bausch torna a Spoleto con Bamboo Blues, un mosaico di immagini in cui si fondono gli aspetti tradizionali e contemporanei dell'India. La sezione teatro si apre con Giorni felici di Samuel Beckett per la regia di Robert Wilson, interpretato da Alessandra Asti. Luca Ronconi si confronta con un classico del Novecento, il Gabbiano di Chekhov. Antonio Latella presenta Le nuvole di Aristofane e poi spazio ai giovani dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Oltre a tanti altri spettacoli ci saranno anche incontri con grandi attori del panorama italiano, Michele Placido, Luigi Locascio, Massimo Popolizio e Paolo Bonacelli. Non mancheranno poi le mostre, dunque ce n'è veramente per tutti i gusti. E ricordiamo che il festival si terrà dal 26 giugno al 12 luglio. Le 13:17 nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato della polemica tra la moglie del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e lo stesso Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato di referendum con le parole del segretario del Partito Democratico Dario Franceschini. Abbiamo parlato di federalismo fiscale che oggi va al voto finale. Abbiamo parlato dell'arresto del boss della Camorra Bidognetti. Adesso ci occupiamo di influenza suina. E lo facciamo facendo un po' di ordine e di chiarezza sulle notizie che si stanno susseguendo nelle ultime ore. Innanzitutto l'ultima, quella che è arrivata un paio di ore fa dagli Stati Uniti. Il primo caso accertato di morte per contagio dal virus dell'influenza suina. Purtroppo è morto un bambino di 23 mesi in Texas. La notizia è stata diffusa da fonti governative americane. E poi l'Europa. Questa mattina le autorità sanitarie tedesche hanno fatto sapere che in Germania ci sono 3 casi confermati. E poi, di nuovo dall'altra parte dell'oceano, ci sono novità anche per quanto riguarda il numero di vittime in Messico, focolaio di questa nuova influenza. Fino a ieri le vittime erano oltre 150, poi le autorità messicane e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fatto sapere sono solo 7 quelle accertate, quelle cioè provocate dal virus mutato. Che cosa vuol dire? Perché questa discrepanza di cifre? Alessandra, tu hai raggiunto il virologo Fabrizio Pregliasco, sentiamo cosa ti ha detto. Sono valutazioni diverse, i numeri a mio avviso hanno entrambi la stessa validità, ma vanno interpretati nel loro senso. Quelli 7 sono quelli confermati in laboratorio, però la conferma di laboratorio in ogni situazione, anche nell'influenza normale, si può fare solo in una minoranza dei casi che si evidenziano in una situazione anche normale e tanto peggio in una condizione di emergenza come quella che è e quella che era del Messico. Quindi la dimensione del fenomeno presumibilmente possiamo dire che sia intermedia fra questi due valori e ovviamente verrà affinata via via che le possibilità e le indagini epidemiologiche potranno essere realizzate. Perché non è sempre possibile effettuare questa verifica in laboratorio? È un problema medico o pratico, insomma? Un problema di entrambe le cose. Un problema pratico perché il virus è presente per poco tempo nel soggetto, bisogna fare un prelievo immediato, bisogna avere una velocità nel portare il campione nei laboratori, ci vogliono laboratori sofisticati che possono fare magari un primis a un livello territoriale una screening di base, cioè una verifica della positività del campione, e poi sono necessari laboratori di secondo livello che possono avere la capacità di, come noi diciamo, sequenziare il genoma, cioè di fare un po' la carta d'identità, l'impronta digitale di questo virus. Dal governo messicano arriva anche la notizia che mentre il contagio insomma continua a diffondersi, la mortalità in proporzione è diminuita. Che cosa vuol dire questo? Un segno positivo di un virus che probabilmente nel momento in cui si sta adattando, perché il virus ha cambiato la sua specificità di specie, però deve ancora, come dire, assestarsi su una variante umana che necessita, come dire, sistemazioni. Anche noi quando ci sediamo su una macchina nuova dobbiamo cominciare a capire dove sono i comandi. Questo magari è un esempio un po' grossolano, però per dire che il virus deve assestarsi. Tipicamente il virus dell'influenza non è un virus cattivo, perché preferisce avere tanta possibilità di diffusione, e questo ce l'ha se la malattia che causa è di basso grado, appunto una malattia che permette alle persone di rimanere in un ambiente in cui ce ne sono altri, quindi nella pratica odierna andare in metropolitana e quant'altro, piuttosto che uccidere il suo substrato. Secondo lei c'è stato troppo allarmismo da parte delle autorità messicane e da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? È difficile una comunicazione equilibrata, a mio avviso ci vuole la trasparenza di informazione perché il rischio c'è, permane, e dobbiamo monitorare la situazione e quindi dobbiamo comunicarla. Questa comunicazione la possiamo fare oggi grazie al fatto che abbiamo un sistema di allarme, se noi cerchiamo le cose spesso le si trovano, e la sensibilità attuale è molto elevata. Nel passato subivamo la pandemia quando questa era una cosa che non si poteva per far poco o nulla, oggi siamo molto precoci e quindi spesso possono esserci non falsi allarmi, ma allarmi che poi si chiudono alla fase iniziale. Ed era il virologo Fabrizio Pregliasco che ci ha aiutato a fare un pochino di chiarezza. Tra l'altro è di pochi secondi fa la notizia che ci sono 3 nuovi casi accertati di febbre suina in Gran Bretagna. Si tratta di una bambina di 12 anni e di 2 altri pazienti a Londra e Birmingham. E domani a Bruxelles ci sarà un vertice straordinario dei ministri della salute dell'Unione. Ma com'è organizzata l'Europa? Prima avete sentito Pregliasco che citava un po' la rete di allarme, di allerta internazionale. Allora, per quanto riguarda l'Europa, ci spiega tutto Paola Testori Coggi, direttore generale aggiunto per la salute e i consumatori alla Commissione europea, intervistata da Sergio Nava. La catena di comando è un coordinamento che è gestito da noi, da Bruxelles, dalla Commissione europea, a cui partecipa la nostra agenzia sulle malattie infettive, che ha sede a Stoccolma, i 27 Stati membri, perché ogni giorno abbiamo delle riunioni con i 27 Stati membri, e l'OMS, e siamo in più in contatto con Stati Uniti, Canada e Messico. Quello che abbiamo fatto fino adesso è questo: ci siamo messi d'accordo su che cosa vuol dire una definizione di caso, perché dobbiamo essere sicuri che gli Stati membri facciano una sorveglianza secondo gli stessi criteri. abbiamo con gli Stati membri deciso qual è la sorveglianza, ci stiamo scambiando le informazioni a livello di Stati membri di quali sono le riserve in materia di farmaci antivirali, perché è importante, come ho detto, siccome questo virus risponde ai farmaci antivirali, bisogna sapere quante dosi sono disponibili, chi le ha, e poi soprattutto un coordinamento per quanto riguarda la capacità di diagnosticare l'infezione, perché siccome qui appena si hanno dei malati che hanno dei sintomi, bisogna subito scoprire se è quel virus oppure se non lo è. E ora il maltempo, andiamo dove si è spostata l'emergenza, sempre che di emergenza si possa ancora parlare, ossia tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Ci colleghiamo in diretta con Marta Cagnola. Marta, tra l'altro tu sei stata una vittima, fra virgolette, dei disagi del maltempo di questa mattina in Lombardia. Allora, com'è la situazione? Si può dire, però quando si può raccontare di essere stati vittime vuol dire che la cosa è andata bene, ma cominciamo con la situazione che sta destando, come dicevate, più preoccupazione. La piena del Po al nord sta andando dalla Lombardia all'Emilia, dove arriverà nelle prossime ore, una piena importante, ma la situazione può essere tenuta sotto controllo. Lo ha spiegato al nostro Paolo Piacenza Ferruccio Melloni, dirigente dell'Agenzia regionale della protezione civile dell'Emilia Romagna. Sentiamolo. Cioè, tanto per essere chiaro, se lei prende il 2000 e il 94 come riferimento, quindi non siamo in un'altra epoca, parliamo di 12.000 metri cubi, ha capito? Quindi qui parliamo di, le ho detto, volendo essere prudenti, le dico fra i 7,5 e gli 8, lì parliamo di 12.000-13.000, capito? Quindi parliamo di un'altra dimensione sostanzialmente, quindi non... è una piena importante. È la, secondo noi, la terza dopo quelle che le citavo, cioè 94 e 2000, hai capito? Però è una piena che dovrebbe stare, starà sicuramente nel range che le dicevo, quindi è una piena che interessa tutto il Po, inteso tutto l'alveo del Po, ma nient'altro, ecco. E può interessare alcune golene abitate a valle, ma siamo fra il Parmense e il Reggiano. Ecco, diciamo che subito questa voce può rassicurarci su quello che accadrà nelle prossime ore, ma vi voglio raccontare anche quello che è successo questa mattina, perché ora ha smesso di piovere, lo abbiamo sentito anche dai nostri aggiornamenti della viabilità, sta piovendo in Liguria, ma insomma in Lombardia la situazione è tornata normale, perlomeno per qualche ora, ma questa mattina la situazione a Milano è stata molto molto difficile, con l'esondazione di Lambro, Molgora, Seveso, Naviglio della Martesana, interrotta per ore la linea 2 della metropolitana. Come avete sentito, il traffico è stato ripristinato, auto bloccate nei sottopassaggi, inondati con interventi dei vigili del fuoco, qui ahimè, tra cui la tua appunto, tra cui la mia, devo dire, bravissimi vigili del fuoco che mi hanno raccontato di essere stati impegnati tutta notte tra appunto sottopassaggi, garage, insomma molto molto impegnati, molto impegnati i vigili del fuoco, molto impegnata la polizia, devo dire che mi hanno telefonato più volte per sincerarsi che insomma io stessi bene, che fossi uscita dall'automobile e dal sottopassaggio. Ottimo applauso quindi al ottimo lavoro, insomma, un applauso va ai vigili del fuoco. Grazie a Marta Cagnola per averci aggiornato sul maltempo in Lombardia. Continuiamo con la cronaca. Sì, con un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria su presunte partite truccate nel mondo del basket. Filippo Veltri, buongiorno, di cosa si parla? Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Si tratta di un'inchiesta che ha dei tratti clamorosi, perché già si parla di un riverbero del mondo del basket, di quanto già avvenuto nel mondo del calcio. Sostanzialmente la Procura di Reggio Calabria sta lavorando su un presunto pilotaggio di alcune partite di basket. Occorre precisare che non si tratta di partite del campionato di A1 maschile di basket, e su favoritismi nei confronti di arbitri che sarebbero stati compiacenti, poi promossi in categorie superiori. L'indagine è fatta dalla Polizia Postale di Reggio Calabria, perché sarebbero state utilizzate proprio il sistema del controllo dell'invio di email da parte di alcuni arbitri che sarebbero stati discriminati e che avrebbero poi scritto a loro colleghi. Partite truccate che sono state giocate in Calabria, Toscana, Umbria e in Sicilia. Fra l'altro, proprio alcuni minuti fa si è conclusa alla Procura di Reggio Calabria l'interrogatorio nel senso che lui era ascoltato semplicemente come persona informata sui fatti, del presidente della Federbasket, che è il grande campione Dino Meneghin, che ha incontrato il PM titolare dell'inchiesta, Maria Luisa Miranda. Lui era stato già convocato da alcuni giorni e l'indagine invece stamattina ha conosciuto questi sviluppi clamorosi. Meneghin, uscendo dal Palazzo di Giustizia, ha detto che occorre fare luce al più presto. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. La signora ha creduto ai giornali, così Berlusconi replica alla moglie che lo aveva attaccato per le liste con veline e soubrette. Poco fa ha detto: farò la campagna elettorale con le cosiddette veline. Influenza suina, prima vittima negli Stati Uniti, si tratta di un bambino di nemmeno 2 anni, 3 casi in Germania, 3 in Gran Bretagna. Arrestato a Napoli Michele Bidognetti, aveva preso il posto di Setola alla guida del clan dei Casalesi. Maltempo, mattinata difficile in Lombardia, fra allagamenti e tangenziali chiuse, sta tornando la calma in Piemonte. 100 giorni di governo e il bilancio su Obama, tra pochissimo in XL, politica estera ed economia i temi principali. Sport truccato, la procura di Reggio Calabria indaga sulle partite di basket, mentre il mondo del ciclismo piange per Rebellin scoperto positivo al doping. In Formula 1 invece la McLaren è stata sospesa per 3 Gran Premi, ma con la condizionale: la condanna per aver mentito ai commissari diverrà effettiva solo in caso di una nuova infrazione. Dopo averlo annunciato ormai parecchie volte, ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse edizioni della GR Extra Large, possiamo dire che sostanzialmente l'accordo fra Fiat e Chrysler si farà. È stata raggiunta dunque un'intesa con le banche creditrici, anche se la vera ufficialità ancora non c'è, del gruppo americano. Ma cosa prevede questa intesa? Lo chiediamo in diretta al collega del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Andrea. Dunque, l'intesa raggiunta con i maggiori creditori prevede che questi ultimi si accontentino, si fa per dire, di 2 miliardi di dollari in contanti rispetto ai quasi 7 di crediti che avevano, quindi rinuncino a una fetta molto grossa del loro debito, del loro credito. Il problema è che non tutti i 46 creditori della Chrysler hanno detto sì, e basta che anche uno solo non sia d'accordo per poter costringere il governo a mandare la Chrysler in Chapter 11, quindi la cosiddetta amministrazione controllata, per forzare a quel punto la mano. Diciamo che l'importante è che la maggioranza dei creditori è comunque d'accordo, perché le 4 grandi banche hanno la parte gran lunga più cospicua dei crediti, e quindi anche in caso di Chapter 11 la procedura dovrebbe essere rapida, e quindi il governo ha le armi in mano per costringere anche quelli più riottosi ad accettare questo patto, e quindi a spianare la strada all'intesa tra Fiat e Chrysler, che come sappiamo dovrebbe essere annunciata a questo punto entro domani, ovvero il giorno della scadenza dell'ultimatum imposto da Obama. Grazie Andrea Malane. A proposito di Obama, oggi è una giornata importante. Sì, è tempo di bilanci. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Barack Obama aveva promesso il cambiamento. Come sono andati i primi 100 giorni della sua presidenza? Risponde Stephen Hess, ex consigliere dei presidenti Ford e Carter, interpellato dalla Brookings Institution. Se consideriamo le tante cose che Obama sta cercando di fare e l'energia che sta spendendo su e giù per il paese e all'estero, e anche il fascino che ha su di noi americani e che ha la sua famiglia, sua moglie, le bambine, direi che sono stati davvero 100 giorni intriganti. Per quelli come noi, che per professione lo hanno osservato da vicino, è stato un gran divertimento. Il risultato finale emerge chiaramente dai sondaggi: la sua popolarità e il consenso sono eccezionalmente alti. Ma sentiamo cosa ne pensano dell'operato di Obama alcuni esperti. Cominciamo con l'economia. Cosa ha fatto nei primi 100 giorni alla Casa Bianca su questo fronte? Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica. Mi sembra che abbia dato una scossa importante, ha dimostrato un impegno finanziario da parte dell'amministrazione consistente. Di fatto sta in parte modificando il rapporto pubblico-privato nell'economia industriale degli Stati Uniti. Mi sembra che la direzione sia quella di un impulso deciso, valuteremo poi se produrrà gli effetti sperati. Marta Dassù, direttrice di Aspenia. Credo che il tentativo di Obama sia stato di dire che la crisi rappresenta un'opportunità, e quindi la sua scelta è stata quella di fare tutto insieme, in un certo senso, una specie di Big Bang. Lo stimolo fiscale, un piano molto controverso per il salvataggio delle banche, ma insieme la riforma sanitaria, la proposta di legge sull'energia, eccetera. E il prezzo di tutto questo è un debito enorme, lui si è assunto questo rischio. Quindi per Obama ricostruire la fiducia dell'America implica il debito, e qua ci sono molti dubbi sulla sostenibilità di questa strategia a lungo termine. Un ultimo punto mi sembra importante in negativo: è continuato l'aumento della disoccupazione, 2 milioni in più di disoccupati in questi primi 100 giorni. Io credo che se questo trend non si inverterà è molto difficile che Obama mantenga questa forte popolarità iniziale. Alberto Simoni, giornalista e scrittore. Barack Obama ha seguito sicuramente una linea, se vogliamo, della continuità sul fronte economico, non tanto rispetto a quelli che sono i principi generali di quella che poteva essere la politica economica di Bush, ma quanto quello legato alla crisi che è esplosa nel suo bubbone appunto in settembre, e l'amministrazione Bush cominciò a mettere soldi per finanziare e stimolare la crescita. Obama non ha fatto altro finora che rafforzare in modo pesante questa visione, quindi ha approvato un secondo pacchetto di stimoli finanziari, ha scritto un budget, una finanziaria molto onerosa per le tasche dei contribuenti, e si inserisce in una continuità rispetto all'ultima parte di Bush, anche se sicuramente è stata molto rafforzata. Se questa è la risposta giusta alla crisi, però non sono certi i primi 100 giorni a poterlo dire, ma bisognerà aspettare almeno il 2010. I would like to speak clearly to Iran's leaders. We have serious differences that have grown over time. My administration is now committed to diplomacy. Il capitolo politica estera, sentiamo ancora Vittorio Emanuele Parsi. In politica estera Obama si è messo nella direzione di poter nuovamente avere a disposizione il cosiddetto soft power degli Stati Uniti. Dopodiché non lo sta ancora esercitando, nel senso che in questo momento ha accarezzato il cane per il verso del pelo, che il cane fossero i medio orientali piuttosto che gli europei, piuttosto che i cinesi e quant'altro. Non ha ottenuto grandi cose per il momento, anche se un po' presto, dobbiamo vedere se a questa strategia del sorriso farà seguito la capacità di portare a casa risultati concreti, ma la politica estera richiede molto tempo. L'opinione di Marta Dassù. Ha cambiato l'immagine dell'America, ci sta riuscendo, e ha cambiato lo stile è quello che sappiamo, la mano aperta ai regimi avversari. Il problema è che mentre cambia questo, cioè dice che è pronto a parlare con i nemici, deve riuscire a tenersi di amici e deve avere dei risultati, e il test vero su questo sarà l'Iran e il rapporto con Israele. Ha poi due guerre aperte, come sappiamo, e le cose non vanno bene non solo in Afghanistan e in Pakistan, il teatro su cui Obama vuole concentrarsi, ma neanche in Iraq. Quindi l'interrogativo è se riuscirà davvero a ritirarsi gradualmente dall'Iraq per impegnarsi fino in fondo su questo AFPAC, sul fronte Afghanistan-Pakistan. Infine, sulla politica estera, Alberto Simoni. Obama, più che cose nuove, ha detto in modo diverso cose che in fondo erano già abbastanza scritte, perché se osserviamo in concreto le direzioni che Obama ha tentato di imprimere alla politica estera americana, non sono così innovative rispetto a quello che ha fatto Bush. Prendiamo semplicemente i rapporti con l'Europa. Il suo viaggio in Europa è stato sicuramente un trionfo, ma lo è stato soprattutto da un punto di vista mediatico, perché alle proposte che ha fatto ai tedeschi e ai francesi, ai tedeschi per esempio di approvare un pacchetto di stimolo per l'economia, a entrambi di impegnarsi di più in Afghanistan, di fatto ha ottenuto picche. Per quanto riguarda l'Iraq, ad esempio, non ha fatto altro che confermare una strategia di disimpegno, fissando la data del ritiro, però il piano era già stato ben individuato, delineato e parzialmente scritto da Bob Gates, quando Bob Gates era segretario di alla difesa di Bush, e così anche per quanto riguarda l'Afghanistan. La vera svolta, se vogliamo, di Obama resta per quanto riguarda il capitolo torture, quindi il capitolo lotta al terrorismo. Ha voluto cancellare la parola lotta al terrorismo e ha deciso di fare questa svolta. I don't have much to say. I want to welcome you all to the 2009 White House Easter Egg Hunt. Yay! Alla Casa Bianca, gli Obama hanno sicuramente portato un vento nuovo. Ma per i grandi cambiamenti, quelli radicali, c'è bisogno di tempo. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima abbiamo parlato di una sorta di basketopoli a Reggio Calabria, ossia le inchieste su presunte partite truccate appunto nel mondo del basket. Ma c'è anche un'altra vicenda di sport truccato che sta dando un grande dolore al mondo del ciclismo. Sì, si è scoperto ieri che Davide Rebellin si è dopato prima di vincere la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino. Lo hanno rivelato i nuovi test voluti dal Comitato Olimpico sui campioni di sangue di 948 8 atleti prelevati durante i giochi. Rebellin è risultato positivo al CERA, il doping di quarta generazione. Tra l'altro il procuratore antidoping del CONI ha provveduto a prendere contatti con la procura di Roma sulla vicenda. E su questa vicenda il commento di Dario Ceccarelli. Purtroppo bisogna smetterla anche di stupirsi, lo abbiamo fatto prima con Basso, poi con Ricò e Piepoli e oggi ci caschiamo ancora con Davide Rebellin, detto il chierichetto perché da piccolo serviva la messa e a quell'aria da Santarellino che non fa mai peccato e da 18 anni timbra ogni giorno il cartellino della fatica. No, anche Rebellin non è un santo, facciamocene una ragione, e non solo perché è stato trovato positivo in un controllo sui campioni di Pechino, ma anche perché nel 2001 era già stato toccato dal filo padovano dell'inchiesta sul blitz al Giro d'Italia e se la sfangò nonostante un filmato che lo ritraeva mentre riceveva e assumeva una fiala proibita solo perché il giudice, precorrendo i tempi, considerò non ammissibili le intercettazioni. Purtroppo bisogna dirlo con chiarezza, c'è tutta una generazione di pseudofenomeni, figli dell'EPO e poi della CERA, questa nuova sostanza che serve per curare l'anemia renale, che fanno della frode una pratica abituale. E il motivo è semplice, perché guadagnano tanto. Ingaggi da mezzo milione di euro all'anno, più varie ed eventuali, che valgono il rischio di una squalifica. Alla fine i conti tornano, Basso è tornato in gruppo, Ricò tornerà l'anno prossimo e qualcuno gli darà il suo bel ingaggio che un laureato, dopo anni di precariato, guadagna in 10 anni. Ecco perché, finti santi del pedale, non vi crediamo più. Come diceva Ciputi, forse è meglio che andate a lavorare, ma sul serio. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:45 minuti, 52 secondi, adesso andiamo all'Aquila. Parliamo del dopo terremoto perché è arrivato l'avviso di rientro nelle case considerate agibili, non un'ordinanza ma un avviso da parte del comune. Ci spiega tutto in diretta dall'Aquila Marcello Ianni. Sì, buongiorno, sono 307 gli edifici residenziali dichiarati agibili in città. Il sindaco Massimo Scialente con un avviso ha dato il via a un graduale ritorno alla normalità. È solo il primo elenco di abitazioni nei confronti dei quali non vale più l'ordinanza dell'8 aprile con cui il primo cittadino aveva dichiarato l'inagibilità di tutto il territorio comunale. Scialente precisa che i cittadini non sono obbligati a rientrare nelle case tornate agibili, lo decideranno in piena libertà. Sono edifici agibili con esito A, ha detto Scialente, cioè casi in cui non è necessario rifare tamponature e tramezzature, ma solo piccoli lavori su lesioni di scarso rilievo. Nulla di strutturale o che comprometta la stabilità. L'elenco è stato stilato dopo i rilievi delle squadre di tecnici coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile. Nei prossimi giorni sono attesi altri elenchi di edifici agibili. Per il momento è tutto e vi restituisco la linea. Grazie Marcello Ianni in diretta dall'Aquila. Molto si è discusso nelle settimane scorse sulla destinazione del 5 per 1000 ai terremotati dell'Aquila. Tra l'altro siamo in giorni di scadenza le dichiarazioni dei redditi, Alessandra. Sì, perché domani scade il termine per chi desidera consegnarla al datore di lavoro. E per quanto riguarda dunque il 5 per 1000, il meccanismo fiscale, lo ricordiamo, che permette di destinare una parte delle imposte dovute allo Stato per sostenere associazioni di volontariato, non profit e ricerca. Ma mentre si firma per quest'anno, si barra la casella per quest'anno, le associazioni ancora aspettano i contributi degli anni scorsi. Per pagare c'è sempre tempo, si dice. Lo sa bene lo Stato lumaca, che ha colpito ancora. Proprio in queste ore, mentre decidete a chi destinare il 5 per 1000 del vostro reddito, sappiate che i destinatari non vedranno un soldo almeno per un paio d'anni. I fondi relativi al 2006, attribuiti dai contribuenti a 31.700 associazioni con le dichiarazioni dei redditi del 2007, infatti, non sono stati ancora distribuiti e in alcuni casi risultano non distribuiti neppure i fondi del 2005, in base alle dichiarazioni del 2006. Per le piccole e piccolissime associazioni, per le quali il 5 per 1000 rappresenta il 70-80% delle entrate, questo a volte può voler dire dover smettere. Arcobaleno Onlus di Bologna è una piccola associazione che si occupa di anziani. Anna Negrelli è la fondatrice. La settimana scorsa io ho saputo che per il primo anno avevamo 92 persone che hanno sottoscritto questo 5 per 1000. Non è arrivato nulla, nessuno ha comunicato nulla, nessuno mi sa dire quando verranno elargiti, ma non solo quando, ma neanche quanto, quant'è. Perché almeno sapere quant'è, uno può dire vabbè, insomma anticipo questi soldi perché magari tra 2 anni li avrò indietro. Niente, noi non sappiamo nulla. nel dire vi ringraziamo di questi fondi avremmo dovuto dire una bugia, perché noi non lo sappiamo. La realtà è che scoraggiano l'attività vera dell'associazione, cioè noi ci autofinanziamo. Nel 2009 i possibili beneficiari del 5 per 1000 sono 46.000 associazioni. Potete trovare i nomi e il codice fiscale sul sito internet www.agenzieentrate.gov.it. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora invece passiamo ad un'altra iniziativa, quella dell'Osservatorio Permanente dei Giovani Editori, iniziativa che si terrà a Bagnaia, provincia di Siena, il 22 e il 23 maggio. È stata presentata questa mattina a Milano. Ci racconta tutto Anna Marino. Sì Alessandra, grazie all'iniziativa Il Quotidiano in Classe dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori, che ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutto l'anno scolastico gli studenti e i loro docenti formati proprio per il progetto ricevono gratis una volta alla settimana le copie dei quotidiani che vi aderiscono, 10 copie del Sole 24 Ore, 10 copie del Corriere della Sera, 10 copie di un autorevole quotidiano di cronaca. Oggi la presentazione della Due Giorni Collegata dal titolo Crescere tra le righe, in cui fotograferanno il rapporto tra giovani sul palco e giovani in platea e l'editoria, non solo i protagonisti dell'editoria come Pier Gaetano Marchetti, presidente di RCS, Giancarlo Ceruti, presidente del Sole 24 Ore, ma anche i protagonisti del mondo dell'informazione, delle imprese e della politica. Alla sesta edizione del progetto nell'anno scolastico 2008-2009 sono quasi 1.700.000 gli studenti delle scuole superiori di secondo grado che partecipano all'iniziativa, circa un giovane italiano su tre, e più di 41.000 gli insegnanti. Secondo il presidente dell'osservatorio Andrea Ceccherini, anche per gli editori e per i quotidiani, senza i giovani non c'è futuro. E per ora è tutto. Grazie ad Anna Marino. Prima di chiudere, come sempre, un rapido riepilogo delle principali notizie della giornata. La signora ha creduto ai giornali, così Berlusconi replica alla moglie che lo aveva criticato per le liste con veline e soubrette. Con loro, aggiunge il premier, farò la campagna elettorale. Influenza suina, c'è la prima vittima negli Stati Uniti, si tratta di un bambino di nemmeno 2 anni. La notizia è stata diffusa questa mattina da fonti governative americane, mentre sono 3 i casi in Germania confermati, 3 in Gran Bretagna. E poi per quanto riguarda invece l'infezione in Messico, lo ricordiamo, il focolaio di partenza di questa epidemia, mentre ieri si dicevano che le vittime erano oltre 150, le autorità messicane e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fatto sapere sono solo 7 quelle accertate, cioè quelle provocate dal virus mutato, sulle altre bisognerà fare delle verifiche. È stato arrestato questa mattina ed è un colpo alla camorra. Michele Bidognetti aveva preso il posto di Setola alla guida del clan dei Casalesi. Maltempo, una mattinata difficile oggi in Lombardia, fra allagamenti tangenziali chiuse. A Milano questa mattina è rimasta bloccata per diverse ore la linea 2 della metropolitana, mentre sta tornando fortunatamente la calma in Piemonte. Sport truccato, la procura di Reggio Calabria sta indagando sulle partite di basket, mentre il mondo del ciclismo piange per Rebellin, che è stato scoperto positivo al doping. In Formula 1 invece la McLaren è stata sospesa per 3 Gran Premi, ma con la condizionale. La condanna è per aver mentito ai commissari e diventerà effettiva solo in caso di una nuova infrazione. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, che è stata condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Pietro Lacorte. Come sempre vi ricordiamo, se volete scriverci l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Per riascoltare la puntata o sentire altri contributi audio della redazione di Radio 24, il sito è sempre lo stesso, www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.